Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria oggi, possiamo dire, per fortuna le borse non fanno tanta notizia, nel senso che ci sono cali ma nell'ordine dello 0,90% a Milano, dello 0,60% a Parigi, un po' più forti a Francoforte, meno 1,30%, ma Londra guadagna lo 0,30%, l'America sul Dow Jones, che oggi è aperta, guadagna lo 0,40%, euro a quota 1,11. Segnalo, per quello che riguarda la borsa, poi ne parleremo, che oggi il caso di borsa a Milano si chiama soprattutto Telecom Italia. Pesa la riorganizzazione, oggi sono usciti i dati, ricavi meno 8,6% nel 2015, e il titolo perde l'8,27%, ed è nettamente quello che ha il calo più significativo, nel senso che poi c'è Tenaris meno 3,25%, Campari meno 3,21% e ancora Unipol meno 3%, Azimut meno 2,90%, CNH meno 2%. Fiat pure perde 2% e Unipol 6%. Il fronte opposto invece vede guadagnare oggi in borsa soprattutto il Monte dei Paschi di Siena, più 10,50%, bene però anche UbiBanca, guadagna il 5,65%, poi bene la Popolare Emilia Romagna, più 5%, Pop Milano più 3,60%, Saipem, Banco Popolare più 3,30%, Saipem più 2%. Ancora segnalo che per il resto il settore bancario, oltre ai titoli già citati, è abbastanza piatto o negativo. Intesa San Paolo perde l'1,40%, ancora un titolo come UniCredit è invariato sul mercato, e le generali perdono lo 0,6%. Ci occuperemo di borsa chiaramente, ma non solo, non tanto. Oggi sono usciti i dati sostanzialmente definitivi sul 2015 per il nostro export, per il nostro commercio con l'estero, più 3,7%, e ai massimi da 3 anni, anche se a dicembre le esportazioni hanno frenato come conseguenza di un rallentamento complessivo dell'economia mondiale. Molto bene l'andamento in Gran Bretagna, più 7%, Stati Uniti più 21%, bene anche nell'area euro, Germania più 1,7%, Francia più 1,2%, Spagna più 10%, e invece molto male, ma come era presumibile, in Russia meno 25%, fermo il nostro export sia sulla Cina meno 0,7% che sui paesi produttori di petrolio, i paesi OPEC meno 1,3%, perché chiaramente il prezzo del petrolio in calo ha ridotto comunque il potere d'acquisto dei paesi OPEC. Attenzione, perché visto che parliamo di petrolio, la notizia di oggi è il congelamento della produzione a livello del 1 gennaio, deciso tra sostanzialmente un accordo tra Mosca e Riyadh, quindi tra Russia e Arabia Saudita, ma a cui hanno partecipato anche Venezuela e altri stati membri dell'OPEC, penso al Qatar. L'accordo è condizionato comunque alla partecipazione di tutti gli altri produttori di petrolio. I 4 paesi firmatari sono pronti a congelare la produzione ai livelli del 1 gennaio, se anche gli altri produttori si associano, ovviamente, altrimenti si creerebbe una situazione paradossale per cui c'è chi congela la produzione e chi continua invece ad aumentarla, e da questo punto di vista non sarebbe poi gestibile un accordo complessivo. Mosca spera che tutti i paesi OPEC sottoscrivano l'accordo. Il petrolio non è che ne abbia risentito tanto, anzi ha perso l'1,5% a $29 al barile, resta comunque sempre su quella cifra, 29, 30, 31 dollari al barile. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, quelli trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma oggi è del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. La notizia che poteva cambiare il corso dei mercati finanziari, ovvero l'accordo fra i produttori di petrolio per evitare incrementi produttivi oltre i livelli di gennaio, si è poi rivelato un flop. Durante i negoziati fra Arabia Saudita, Russia, Qatar e Venezuela, si è infatti raggiunto un accordo per evitare ulteriori incrementi della produzione, visto soprattutto il continuo calo dei prezzi, e durante il negoziato il petrolio era addirittura salito quasi il 5%. Ma che cosa è successo poi? Che una volta letto l'accordo ci si è accorti che soltanto se l'Iraq e l'Iran smetteranno di produrre più greggio degli altri paesi, anche gli altri si adegueranno e non aumenteranno di più il flusso dei pozzi. In sostanza che significa? Nulla, perché sia Iraq che Iran non hanno nessuna intenzione di sospendere l'aumento dei flussi petroliferi. Che cosa è successo dunque? Che il mercato immediatamente ha cominciato a rivendere futures petroliferi, il petrolio è sceso e si è tirato dietro anche le borse. Come vediamo, ormai le correlazioni fra diversi mercati, petrolio da una parte, mercato azionario dall'altra, fa sempre i conti con la stessa variabile, il passo dell'economia. Non basta fermare la produzione oltre i livelli del mese precedente e non basta soprattutto pensare che un accordo globale sia raggiungibile quando tra gli stessi produttori di petrolio ci sono ormai politiche e mire divergenti. Insomma, ancora una volta si ripropone il solito tema: senza una leadership globale dei mercati e soprattutto della politica, e difficilmente si troverà pace sia sul mercato delle valute che su quello delle borse e soprattutto del petrolio. Serve economia e leadership. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Devo dire che a conferma di quanto stava ricordando pochi secondi fa Alessandro Platerotti, è appena arrivata la notizia che l'Iran non rinuncerà alla sua quota di mercato petrolifero. Lo ha dichiarato il ministro del petrolio della Repubblica Islamica Bijan Zanghaneh, il quale ha annunciato che domani a Teheran vi sarà un incontro anche con il ministro del petrolio iracheno Adil Abdul Mahdi e il ministro venezuelano Delpino. Per cui sicuramente l'Iran non si adeguerà e probabilmente anche l'Iraq, ecco perché poi il mercato ha reagito in maniera molto molto fredda, addirittura andando a vendere ulteriormente petrolio come futures, perché se mancano poi Iraq, Iran e vediamo anche Venezuela, Venezuela è tra i firmatari, per cui bisogna capire il problema vero qual è, come ricordava Platerotti, che se poi iniziano ad esserci le defezioni anche gli altri non ci stanno a congelare la produzione a livello del primo gennaio. Va bene, intanto in Giappone sono partiti i tassi negativi, la banca centrale giapponese per combattere la deflazione ha portato i tassi appunto meno 0,1%, verrà applicato determinate riserve che le banche giapponesi parcheggiano nella banca centrale giapponese, mentre oggi dalla Germania arriva una dichiarazione del presidente della Bundesbank Weidmann, che davanti alla Corte Costituzionale, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha detto: le mie riserve sul meccanismo di salvataggio adottato in Europa restano invariate, soprattutto sull'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, i rischi verrebbero comunitarizzati e ripartiti tra i contribuenti. In realtà Weidmann dovrebbe sapere che il tema si è spostato dall'acquisto di titoli di Stato da parte della banca centrale per aiutare le economie in caso di necessità, in caso di spread che iniziano a schizzare, e si è tutto spostato sul bail-in, quindi sul salvataggio interno a cui le banche sono dal primo gennaio obbligate in caso di problemi finanziari, non più aiuti quindi esterni dello Stato. Su questo c'è chi ritiene che, anche se Mario Draghi ha detto chiaramente è troppo presto rivederlo adesso che è appena partito, ma Draghi ieri ha ricordato anche che occorre puntare più sulla crescita e ridurre le tasse nell'area euro, Faccio notare che speriamo che non vi sia nessun'altra banca, non solo italiana ma nemmeno tedesca, ad avere problemi, perché il bail-in poi crea dei grossi problemi sul fronte del salvataggio. Detto questo, la Commissione Europea oggi non vuole prendere in considerazione un piano B sul fronte britannico, sul fronte della Brexit. E poi c'è Juncker, il quale oggi dice, il Presidente della Commissione Europea: la risposta alla crisi non deve essere solo un'intransigente austerità. Io sono un partigiano di questo mix virtuoso di consolidamento delle finanze pubbliche, riforme strutturali e investimenti. Ascoltiamo Juncker. Faccio notare che sul fronte del consolidamento delle finanze pubbliche, cioè sistemare i conti, lo sappiamo tutti che l'Europa ha questa direzione. Sulle riforme strutturali, giustissimo chiedere che i paesi facciano le riforme, l'Italia ma anche la Francia, là dove non le hanno fatte. Sul fronte di quelle che Juncker chiama investimenti, se si riferisce al suo piano, sapete il giudizio di chi vi parla: è un piano del tutto scritto sull'acqua, cioè un piano che sposta 15 miliardi, sposta, non ci sono 15 miliardi di nuovi investimenti, sono fondi già esistenti, con l'obiettivo di far sviluppare 300 miliardi di investimenti privati, perché tu ne metti uno ogni, voglio dire, 20 di investimenti pubblici. Mi sembra un piano quantomeno un sogno ambizioso. Poi arriverà, non si capisce perché i privati dovrebbero mettere 300 miliardi a fronte di soli 15 miliardi di investimenti complessivi di Bruxelles. Per cui, comunque, sentiamo Juncker che dice: no, non siamo solo per l'intransigente austerità. Nous avons sur un laps de temps assez court su mobiliser un nombre impressionnant. In un lasso di tempo abbastanza ristretto abbiamo mobilitato un numero impressionante di risorse private e pubbliche. Gli investimenti avranno luogo in 22 paesi e ne beneficeranno le piccole e medie imprese. Non vedo legami diretti tra la crescita, che rimane mediocre nella zona euro come nell'Unione, e l'attuazione del piano di investimenti. Aggiungo che più è flebile la crescita economica, più è forte la nostra volontà di accelerare la messa in opera del programma di investimenti. Penso anche che il piano non debba essere limitato ai 3 anni attuali, ma che dovrebbe essere prolungato per tutto il mandato della Commissione. Io non sono certo un partigiano della cieca austerità, come invece è stato spesso detto. Io sono contro l'idea che la risposta alla crisi debba essere solo un'intransigente austerità e rigore. Io sono un partigiano di questo mix virtuoso tra l'assoluta necessità di consolidamento delle finanze pubbliche, le riforme strutturali e gli investimenti. Sono questi i 3 elementi virtuosi che devono caratterizzare le nostre politiche in Europa. Qui font l'ensemble vertueux qui doit caractériser nos politiques en Europe. E su questo è intervenuto anche il Presidente del Consiglio da Buenos Aires. Tra l'altro vi sarà poi, adesso aspettiamo 2 cose sostanzialmente, la conferenza stampa di Renzi da Buenos Aires, che è appena terminata, sto guardando le agenzie, e invece dovrebbe essere iniziata la conferenza stampa a minuti del Presidente della Regione Lombardia, Maroni. Qui è una vicenda di cui ci occuperemo tra pochissimo. Comunque Renzi oggi l'ha detto in maniera molto chiara, insomma, l'austerità ha messo a rischio il futuro dei giovani. L'Europa ha bisogno di scrollarsi dalla polvere del passato, e mentre gli Stati Uniti hanno avuto una politica economica adeguata, l'Unione Europea ha sbagliato completamente politica economica. In questi ultimi 8 anni le politiche di sviluppo fatte dall'America di Obama sono state giuste, le politiche di sviluppo fatte dall'Europa dell'austerity sono state sbagliate. Attenzione, l'Italia deve tenere sotto controllo il proprio debito pubblico. L'Italia deve stare attenta ai conti, e vale per tutti i paesi, vale per voi, per noi. L'Italia deve essere molto saggia, usare i soldi con la prudenza di quello che i latini chiamavano il bonus pater familias. Però guardate i numeri degli Stati Uniti e dell'Europa. Mettete il punto X, il punto zero al 2008, quando arriva Obama. Vedrete che all'inizio la situazione peggiora un po', ma poi risale in termini di PIL, di GDP negli Stati Uniti, e cresce l'occupazione. Da noi in Europa è stato l'opposto. Allora, anche qui uno la può pensare come vuole su Renzi, ma sapete che chi vi parla ha sempre detto prima che lo dicesse Renzi, ma insomma, era talmente evidente che le politiche economiche americane ha portato a una riduzione della disoccupazione tornata ai minimi dal 2007 e ha fatto uscire l'America dalla crisi. La politica che abbiamo adottato noi continua a lasciare l'area euro, oltre che essersi beccata la seconda recessione, unico caso al mondo, a lasciarla con una crescita molto deludente e con alcuni problemi del tutto irrisolti, penso alla Grecia, ma non solo. Io la volta scorsa noi dicevamo modestamente si faccia anche un passo ulteriore: se l'Unione Europea ha sbagliato politica economica, si vada a vedere chi ha diretto o diciamo indirizzato fortemente la politica economica dell'Unione Europea negli ultimi anni. Si chiama Germania, un po' Olanda e un po' qualche paese del nord, ma soprattutto Germania, fine. Se ti andava bene ti prendevi i meriti, è andata male e ti prendi dei meriti. Io la vedo un po' così, scusatemi, visto che tutta questa austerità è il mantra, era il mantra della Germania già nel 2011, mentre salvava Commerzbank e Deutsche Bank con aiuti di Stato, imponeva il fiscal compact e quant'altro, poi finita di salvare le sue banche, perché ci sono anche le casse di risparmio locali, ha imposto il bail-in, ma non con la condivisione, diciamo, delle garanzie sui depositi, solo nella parte che riguarda chi deve pagare in caso di fallimento di una banca, perché ricordo che la struttura del salvataggio interno prevede, ha come obiettivo un obiettivo giusto, cioè che non paghino i cittadini per la cattiva gestione di una banca, quindi fa pagare gli azionisti, poi gli obbligazionisti, poi i correntisti sopra 100.000 euro, ma è previsto nell'Unione Bancaria Europea anche che il fondo privato, diciamo bancario, di tutela dei depositi venga condiviso. Su questo invece ci si è fermati in maniera molto improvvida, perché non è detto che poi un sistema abbia da solo tutti i soldi per pagare i correntisti fino a 100.000 euro. Ci si è fermati perché la Germania non vuole. Ecco perché io parlo di atteggiamento non coerente: da un lato chiedi austerità, regole durissime e non vuoi salvare le banche, non vuoi che il peso del salvataggio delle banche ricada su tutti, dall'altro ti sei salvata le banche e non hai mai messo in pratica l'idea del pareggio di bilancio, che vale anche quando hai troppe entrate rispetto alle uscite, diciamola così. Allora, sul Jobs Act invece ci sono i dati oggi, e ne ha scritto anche il Presidente del Consiglio. E cosa è successo? Il dato complessivo dell'INPS sull'osservatorio del precariato mostra che nel 2015 vi sono stati 764.129 contratti a tempo indeterminato in più. Nel 2014 il saldo era negativo di 52.000 unità, quindi il dato è ovvio che risente degli sgravi previsti dalla legge di stabilità, non dal Jobs Act, cioè quelli da gennaio 2015 a dicembre 2015, i famosi fino a 8.000 euro in meno di contributi all'anno per 3 anni dati a chi assumeva a tempo indeterminato. E, però il dato è sicuramente buono, quindi è inutile girarci attorno. 764.000 contratti a tempo indeterminato in più è la differenza tra quanti sono cessati e quanti si sono creati, cioè 2.400.000 assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni a termine, gli apprendisti, a fronte di 1.680.000 cessazioni. Quindi la differenza è positiva per 764.000 posti a tempo indeterminato in più. Nel 2014 la stessa differenza era negativa, cioè si erano persi 52.000 posti a tempo indeterminato. Quindi il dato è positivo, ripeto, non solo per il Jobs Act, anche e soprattutto per la decontribuzione. Per quello che riguarda gli assunti, sono 1.440.000 quelli assunti con gli sgravi e il botto l'ha fatto il mese di dicembre. dove si sono registrate praticamente il doppio, 272.000, forse perché era l'ultimo mese utile per avvantaggiarsi poi dello sgravio contributivo. Il commercio con l'estero, dicevamo, poi vi arriveremo, più 3,7% nel 2015. Ancora due notizie in breve per quello che riguarda le sofferenze bancarie. Oggi l'ABI fa sapere che le sofferenze sono quelle nette, 88,9 miliardi, basta dare il dato su quelle lorde, quindi daranno solo il dato sulle nette. I prestiti alle famiglie e alle imprese sono in calo dello 0,5% nel mese di gennaio. Su Monte dei Paschi mi chiedete se c'è qualche novità, visto che il titolo va particolarmente bene. No, ci sono novità sulla vecchia gestione del Monte dei Paschi. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 13 persone, tra cui gli ex vertici del Monte dei Paschi, l'avevamo anticipato dopo la chiusura dell'istruttoria, e ex manager e manager di Deutsche Bank e Nomura. I reati contestati sono falso in bilancio, ostacolo all'attività di vigilanza in Consum, Banca Italia, aggiotaggio, falso prospetto per i fatti commessi dal 2008-2012. Riguarda una serie di operazioni finanziarie con cui sarebbero state coperte le perdite dopo l'acquisto da parte della banca di Anton Venta, ricordati i famosi derivati Alexandria e Santorini. I 13 indagati, tra di loro c'è chiaramente Giuseppe Musseri, ex presidente, l'ex direttore generale Antonio Vigni, l'ex responsabile della finanza Gianluca Baldassarri, l'ex direttore finanziario Daniele Pirondini e un altro manager del Monte dei Paschi, oltre a 6 dirigenti o ex dirigenti di Deutsche Bank o di Nomura. E poi la vicenda che sta facendo tremare non lo so, ma sicuramente sta creando scompiglio in regione Lombardia. Che cosa è successo? Oggi 21 persone sono state arrestate all'alba praticamente dai carabinieri di Milano come esecuzione della custodia cautelare emessa dal Tribunale di Monza. Sono anche indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio. L'indagine coordinata dalla Procura di Monza si chiama SMILE e ha ricostruito l'operato di un gruppo di imprenditori accusato di aver corrotto funzionari per le gare d'appalto pubbliche lombarde bandite da diverse aziende ospedaliere per la gestione esterna di servizi odontoiatrici, riuscendo ad aggiudicarsene. Nello specifico, nell'operazione SMILE, per irregolarità in appalti odontoiatrici è finito in carcere il consigliere regionale della Lega Nord Fabio Rizzi, che è presidente della Commissione Sanità in regione ed estensore della recente riforma. Custodia cautelare anche per la moglie di Rizzi, con gli arresti domiciliari, perquisizioni negli uffici per entrambi, c'è l'accusa di associazione per delinquere. Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo, ospite del nostro Effetto Giorno, ha detto: sul piano istituzionale questo è un duro colpo alla credibilità del Consiglio regionale lombardo. Beh, insomma, certamente questo è stato un fatto che abbiamo accolto con sgomento e anche con molta tristezza, un fatto che addolora, che colpisce il Consiglio regionale in un momento in cui stavamo tutti lavorando per restituire al Consiglio regionale credibilità e dignità attraverso la qualità del nostro lavoro. Un fatto ovviamente sul quale siamo ancora tutti in attesa di avere notizie più precise, perché al momento si sa veramente ancora poco, non si sa neppure con esattezza in quale periodo sono collocati i fatti che vengono contestati a Fabio Rizzi, e ovviamente un fatto di fronte al quale le valutazioni da esprimere sono innanzitutto due. La prima è che dal Consiglio regionale deve venire un messaggio chiaro di rispetto della legalità e di condanna per ogni tipo di malaffare, e al tempo stesso però, nel rispetto della legalità, ci deve essere il principio sacrosanto della presunzione di innocenza, perché insomma tutti quelli che come me conoscono anche Fabio Rizzi hanno qualche difficoltà a immaginarselo autore di conventicole, consorterie dedite costantemente al malaffare. Detto questo, se ci saranno e saranno accertati in sede di giudizio fatti gravi, ovviamente di fronte a questi fatti non ci deve essere nessun equivoco, la condanna deve essere assoluta. Making it. vedo adesso alcune dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, che sta parlando in conferenza stampa. Io devo citare testualmente: Maroni, sono incazzato, stupito e tanto deluso. Sono molto incazzato per quello che è successo, fermo restando la presunzione di innocenza. Attenzione, perché nell'inchiesta si dice che questi appalti venivano dati in cambio di soldi per finanziare la campagna elettorale. Adesso poi vi arriveremo, insomma. Il tema riguarda i servizi odontoiatrici e le gare bandite da diverse aziende ospedaliere della Regione Lombardia. Ma il problema è che in cambio di questi appalti, l'accusa è che venisse finanziata da parte di chi vinceva questi appalti la campagna elettorale di questi soggetti, tra cui Rizzi. Allora, dice Maroni, fermo restando che stiamo leggendo gli atti e verificando le imputazioni, il mio primo sentimento di stupore e di grande delusione se le accuse fossero confermate nei confronti di Fabio Rizzi. La regione parte offesa, subito comitato ispettivo, non vogliamo coprire nessuno, non abbiamo nessuno da difendere, chiunque abbia sbagliato mi risponderà. Ora, visto che oggi c'è anche il dato, e da lì partiamo, del commercio con l'estero per il 2015, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Marco Fortis, che è editorialista del Sole 24 Ore, insegna economia industriale alla Cattolica di Milano. Buonasera Fortis. Buonasera. Io la chiamo per il commento sull'export, ma anche e soprattutto perché è uscito sul Sole 24 Ore dello scorso 14 febbraio una sua analisi che obiettivamente più di tante, era domenica chiaramente, più di tante così, opinioni, la dice lunga su come vengono fatti, non dico i rating dalle agenzie di rating, ma in realtà su quello che era stato il saluto di un paese. E lei lo titola il rating sottostimato dell'Italia, Standard & Poor's ci assegna BBB meno, ma non considera economia reale, solida, ricchezza privata da record e posizione finanziaria netta garantita. Cosa vuol dire? Che questo paese ogni anno, prima di pagare gli interessi sul debito, chiude in avanzo, come una famiglia che prima di pagare gli interessi su un mutuo avesse un utile, cioè tra entrate e uscite, importante, avesse un avanzo importante. È uno stato di salute questo, altri paesi non ce la fanno. E quindi vorrei, dopo il metodo e la pubblicità, tenere assieme sia i dati sull'export che quanto lei ricorda, su un modo un po', diciamo, è come nel rugby, gli arbitri non sono mai generosi con noi perché siamo da poco arrivati a fare il rugby di alto livello. Qui si giustifica meno perché noi siamo padri fondatori dell'Europa. Dopo il metodo. Focus Economia. Allora, professor Fortis, iniziamo dal dato più recente. Commercio con l'estero 2015, più 3,7% ai massimi da 3 anni, anche se ha leggermente frenato a dicembre. Il surplus commerciale, la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo, è a vantaggio dell'Italia e sale a 45,2 miliardi. Senza il mercato dell'energia, di cui siamo importatori netti, saremmo a 78 miliardi, professore. Sì, e siamo a 92 miliardi considerando solo l'interscambio dei prodotti manifatturieri, certo, che ci pone, come ricordo sempre, al quinto posto nel mondo per saldo commerciale manifatturiero con l'estero. Il dato della bilancia commerciale è anche quello complessivo e molto importante, perché dimostra che ormai l'Italia è seconda in Europa solo alla Germania, se escludiamo il caso dell'Olanda, che è un puro paese di transito tra merci, diciamo, extraeuropee, che poi l'Olanda fa filtrare verso l'Unione Europea, quindi una bilancia commerciale sui generis. Quella dell'Italia è ormai saldamente la seconda bilancia commerciale europea per importanza. Il 2015 è stato un anno un po' particolare perché era partito a gonfie vele e poi è andato man mano spegnendosi come tassi di crescita dell'export per un po' tutti i paesi d'Europa per via del rallentamento dell'economia mondiale, in particolare della crisi dei paesi emergenti. Però si è concluso molto quindi, positivamente. Brasile, Russia, India e Cina. Sì, aggiungo io, il duro sarà replicare questo dato nel 2016 perché la Russia non dà cenni di miglioramento, il petrolio a $30, il Brasile sarà in recessione anche quest'anno, la Cina ha confermato ieri crollo nelle importazioni e calo pesante anche nelle esportazioni. Certo che gli Stati Uniti dovrebbero continuare a crescere in maniera interessante, però poi il raffronto lo fai sull'anno prima. Vedremo, vedremo, siamo ancora a febbraio. I dati sui paesi, dicevo, bene, sia interno all'Europa, più 1,7% in Germania, più 1,2% in Francia, più 10% in Spagna, più 7% in Gran Bretagna, poi fuori dall'area euro più 21% dall'Europa, più 21% Stati Uniti, invece debole la Cina, meno 0,7%, l'OPEC, meno 1,3%, e poi la Russia, che è un precipizio, meno 25%. Alcuni mi scrivono del rugby. Io non ho detto che sto contestando, anche perché nel rugby non si possono contestare gli arbitri, si beccano 10 metri di punizione. Ho detto solo che nel rugby avviene che l'Italia, essendo arrivata da poco, diciamo, non ha mai degli arbitri che nel dubbio l'avvantaggino, posso dirlo così? Quello che è strano, e vengo secondo tema, professor Fortis, che è un po' lo stesso atteggiamento noi lo subiamo anche a livello europeo e a livello internazionale. Mi spiego. Lei analizza punto per punto sul Sole 24 Ore di domenica, a pagina 2, noi abbiamo un rating BBB-, che è quello che ha anche, per dire, la Romania. Poi però, cos'è che l'ha lasciata perplessa quando va a analizzare i dati concreti di bilancio, oltre che di economia reale? Beh, non è che io sia perplesso solo da pochi giorni. Da no, no, certo. Sono perplesso di questo, perché in realtà il nostro paese, come ricordato, è un paese che fa parte tra dei paesi fondatori dell'Europa, e dopo che ha smesso di fare le spese pazze degli anni 80 col debito pubblico, praticamente dal 92 ad oggi è sempre stato in avanzo primario con l'esclusione di un solo anno. È l'unico paese al mondo che abbia avuto una performance di questo genere. In sostanza, noi siamo proprio come la famiglia ricordata prima, che avendo un mutuo da pagare, da quel giorno che abbiamo messo la testa a posto, cioè dall'inizio degli anni 90, abbiamo smesso di fare spese ulteriori. Tutto quello che guadagniamo in un anno lo destiniamo sostanzialmente il più possibile a pagare gli interessi. Dopodiché gli altri paesi non fanno così, però non ci viene riconosciuto questo. L'unico paese che oggi, come l'Italia, è in grado di pagare cash, almeno gli interessi che vengono dovuti agli investitori stranieri, è l'Italia, quindi dovrebbe essere un buon titolo di merito per farci guadagnare qualche punto, almeno un paio di gradi sopra il livello della Romania, forse ce li meriteremo tutti, considerando anche che poi siamo un paese con un'economia reale solida e soprattutto che ha un debito estero che in rapporto al PIL è poco più alto di quello della Germania. Noi siamo al 45% del PIL, la Germania, ecco, chiariamo questo, chiariamo questo. Il debito estero cosa vuol dire? È un po' il caso giapponese. Il debito nostro è altissimo e lo sappiamo, lo diciamo sempre. La parte di debito in mano agli italiani, o meglio, diciamo, la parte nostra di debito in mano agli stranieri, che è quella tra virgolette più rischiosa, nel senso che è quella più soggetta poi appunto a fughe, a pressioni, a diciamo tensioni, anche panico delle volte, è bassa, non è bassa come quella giapponese. Il Giappone ha il vantaggio che la stragrande maggioranza del suo debito è in mano ai giapponesi stessi, per cui noi non l'abbiamo così bassa, ma lei dice è a un livello pari alla Germania, la quota di debito che non è in mano agli italiani. No, la quota di debito che non è in mano agli italiani è persino più bassa di quella della Germania, ma in rapporto al PIL noi siamo al 45, la Germania al 42, quindi un livello che non dovrebbe preoccupare, anche perché differentemente dalla Grecia, dalla Spagna, dal Portogallo, da tutti i paesi che hanno veramente delle situazioni critiche in termini di contabilità dello Stato, noi abbiamo la capacità all'interno di finanziare il nostro debito. Le banche, i fondi di investimento, di fondi pensione, le assicurazioni investono in titoli di Stato utilizzando sostanzialmente, proprio perché possono attingere a una grande ricchezza privata interna che sono i nostri depositi, i nostri investimenti finanziari nelle banche e nelle compagnie di assicurazione. Quindi c'è un equilibrio interno che è, tutto sommato, è un problema nostro interno. Siamo in grado di finanziarci il debito e quindi non si capisce perché dobbiamo essere penalizzati con un rating che oltretutto non è che penalizza soltanto i titoli di Stato, ma penalizza tutto il sistema economico. Quando una nostra impresa deve chiedere dei finanziamenti, quando una nostra banca deve fare delle operazioni internazionali, oltre che il suo proprio rating, mettono sul piatto della bilancia anche quello del paese di cui fa parte. Quindi ogni miglioramento del nostro rating dovrebbe essere una battaglia come un solo uomo l'Italia dovrebbe fare, mentre invece assistiamo molto spesso anche a delle dotte disquisizioni sulla fragilità del nostro sistema che poi non sono molto utili ai fini di conseguire quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo primario, cioè farci alzare il rating, pagare meno gli interessi sul debito, perché non ha senso che noi paghiamo 4 punti di PIL di interessi all'anno, mentre la Germania, che è il nostro stesso debito, ne paga soltanto 2 in rapporto al suo PIL. È vero che il PIL è più alto, ma anche un basso interesse implicito molto più basso del nostro, e lo spread adesso si è abbassato, le condizioni sono cambiate perché c'è il quantitative easing, c'è una BCE che protegge anche lei finalmente. Beh, insomma, qualcuno ci guadagna, diciamolo tutto, professor Fortis, perché quando tu paghi così tanto di interessi su un debito, fai guadagnare chi compra il tuo debito, diciamocela tutta. Però no, in una battuta, perché adesso poi il traffico, secondo lei perché? C'è un problema di capacità di peso politico, c'è un vizio d'origine? So benissimo, è inutile che mi insultiate alcuni ascoltatori, che abbiamo un debito pubblico altissimo, l'abbiamo detto. Si parlava della quota di debito pubblico in mano agli stranieri, il nostro debito è al 138% del PIL, se non ricordo male, se vado a memoria, è un debito alto, ci mancherebbe, però si parlava della parte in mano non agli italiani stessi, cioè non i bot che sono in mano alle banche o ai risparmiatori italiani, ma in mano agli stranieri. Perché questo? Diciamo che c'è un problema anche di comunicazione, perché bisognerebbe, a mio avviso, spiegare meglio tutta una serie di batterie di indicatori che non sono spiegati bene. Il caso anche delle banche è emblematico. Noi abbiamo delle banche che hanno sì dei titoli di Stato in portafoglio, ma sono titoli assolutamente solidi, e ci si preoccupa adesso eventualmente, come vogliono i paesi del Nord Europa, di mettere un tetto ai quantitativi di titoli di Stato nelle nostre banche. Bisognerebbe mettere dei tetti sui quantitativi di titoli tossici e di derivati che hanno le banche, che sono molto più pericolosi. È le vero. Banche del Nord Europa ne hanno una quantità. No, ma infatti adesso la polemica pazzesca, adesso dico così, riattacco la Germania. Punti, la polemica pazzesca Schäuble, che adesso vorrebbero non rendere più nemmeno, diciamo, garantiti i titoli di Stato in mano alle banche. Ok, e creare quindi una specie di bail-in, ma voglio dire, il problema vero a casa mia sono i titoli tossici in pancia alle banche, per cui iniziamo a levare quelli. Ci spieghi Deutsche Bank per esempio quanti ne ha, perché quando uno fa un buyback, per carità, di solito è quando vuole eliminare, dare un segnale che è tranquilla e spende dei soldi per lasciare meno debito possibile sul mercato. Non è un bel segnale, mi riferisco a Deutsche Bank, vuol dire che ha liquidità, ma vuol dire che quella, la roba che hai in giro come prestiti, è meglio che te la ricompri. Lo dico perché, insomma, non stiamo raccontando che gli italiani sono bravi, belli, intelligenti, lo dico un ascoltatore, stiamo cercando di mettere, visto che mi sembra che non lesiniamo critiche al paese, al modo in cui viene gestito, agli sprechi, abbiamo una rubrica anche apposita, alle malversazioni, tutto quello che volete, ma se poi ci sono dei numeri che non vengono letti correttamente o a cui non viene dato lo stesso peso, beh, va detto, perché un conto è farsi l'esame, farsi i compiti a casa, un conto è avere sempre la coda di paglia quando vai a parlare, o le orecchie d'asino, per meglio dire, quando vai a parlare in Europa. Tutto qui, non stiamo dicendo che siamo bravi, belli, intelligenti, c'è una marea di cose da fare in questo paese, però guardate i numeri. Grazie a Marco Fortis. Traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, certo che siamo ben strani anche noi come popolo. Uno, in settimane di borse che calano, preoccupazioni sulle banche e quant'altro, racconta un dato positivo, certo, che è l'export italiano nel 2015 a record. Spiega quanto illustrato sul Sole, guardatevi il Sole di domenica, sul perché noi veniamo considerati in un certo modo, pur avendo un surplus primario dal 92, pur avendo una parte di debito pubblico in mano agli stranieri che è basso e in percentuale più come la Germania. E alcuni di voi si lamentano, ecco, manca solo l'inno nazionale, ma possiamo anche parlare bene dell'Italia ogni tanto? Non mi sembra che, cioè, ci siano tutti sti spunti, ma quando ci sono facciamolo. Vabbè, Sissi Bellomo, andiamo sul petrolio invece. Buonasera alla collega del Sole 24 Ore, Sissi. Buonasera, andiamo sul petrolio. Andiamo sul petrolio, andiamo sul liscio. Meno polemiche, forse. No, nel senso che ho già visto che l'Iran non ne vuole proprio sapere di bloccare la produzione di petrolio a inizio gennaio, che è l'accordo faticosamente raggiunto oggi tra quattro paesi produttori. In primo luogo ci tiene molto Mosca e a sto punto anche Riyadh. E domani l'incontro con l'Iraq, è già saltato l'accordo in questo modo? No, questo è il punto debole dell'accordo effettivamente, perché anche i sauditi, i russi, i catarini e i venezuelani che si sono accordati sul congelare la produzione hanno anche detto se lo faranno gli altri. È abbastanza comprensibile da parte dell'Iran che facciano delle resistenze, hanno appena avuto le sanzioni internazionali ritirate e dicono semplicemente sì, noi ci stiamo. Se prima ci fate recuperare i livelli produttivi di prima delle sanzioni, è chiaro che questo farebbe naufragare un accordo che è già un accordo al ribasso, perché ricordiamoci che non si tratta di un taglio di produzione, ma di un mantenere ferma la produzione su livelli di gennaio, che sono livelli record, che fanno sì che il mercato sia fortemente in eccesso di offerta. Pare però ci sono già voci riferite da Reuters, secondo cui c'è una seconda gamba della trattativa che è in corso proprio con gli iraniani, che ci potrebbe essere qualche contropartita sul piatto, quindi magari almeno un accordo di facciata potrebbero riuscire a raggiungerlo con l'Iran e quantomeno smetterebbe di crescere la produzione di petrolio. Beh, insomma, per come la vedo io, è una parziale ammissione di una sconfitta da parte dell'Arabia Saudita? In parte potrebbe esserlo, in parte potrebbe essere anche una mano tesa verso i dissidenti all'interno dell'OPEC, che sono sempre più numerosi. I sauditi erano riusciti a tirare dalla loro parte gli altri membri dell'OPEC, a convincerli che se avessero fatto scendere il prezzo del petrolio evitando di tagliare la produzione, prima o poi i produttori a più alti costi estrattivi, parliamo dello shale oil prima di tutto, ma non solo, avrebbero dovuto per forza di cose mollare l'osso, perché non ci stavano più dentro con i soldi, con gli economics dei loro giacimenti. Questo si è rivelato molto molto più lento di come i sauditi sperassero e contassero che fosse, ma anche di come pensavamo tutti quanti, analisti, giornalisti, persone che seguono il settore. Però sta succedendo qualcosa, la produzione esterna all'OPEC effettivamente sta calando, sia pure lentamente. Sono stati cancellati miliardi e miliardi, almeno 400 miliardi di investimenti cancellati, per cui in futuro ci sarà senz'altro un problema di produzione che cresce troppo poco a fronte della domanda. Sono appunto i tempi che sono lunghissimi, la sofferenza soprattutto per alcuni paesi è molto molto forte, il Venezuela per esempio è proprio sull'orlo del collasso. E quindi potrebbe anche essere una questione di politica interna, ma sì, concediamo quantomeno un accordo de minimis, ci teniamo buoni i nostri alleati interni all'OPEC. E a questo punto però, se l'accordo dovesse avere veramente successo, lo sapremo quando vedremo il prezzo del petrolio, non dico crescere in maniera prorompente, ma almeno stabilizzarsi? Molti analisti ritengono che comunque gli aggiustamenti che ci sono sul mercato facciano sì che nella seconda parte di quest'anno assisteremo a una risalita dei prezzi, addirittura molte previsioni indicano che i prezzi potrebbero raddoppiare, certo raddoppiare da $30 o meno si arriverebbe comunque intorno ai 60, certo raddoppiano, ma i tempi in cui il petrolio costava $100 e passa al barile sono lontani e potrebbero ritornare, ma non certo domani. Staremo a vedere poi che cosa succederà, vediamo se vi sarà una via di uscita anche per l'Iran. Grazie intanto a Sissi Bellomo, GR24. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30, solo su Radio 24. Questo non credo. Ascoltaci anche in digital radio. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digital radio. Focus Economia. Di nuovo in diretta alle 18:08 con Sebastiano Barisoni, dopo aver affrontato il tema, diciamo, dei conti del 2015 sull'export italiano e il saldo di bilancio. Mi dispiace in chi spera sempre tanto peggio, tanto meglio, ma i dati sono buoni, non so più come metterla giù, nel senso che quando tu tocchi un record per quello che riguarda il surplus commerciale è di 45,2 miliardi, in miglioramento di quasi 4 miliardi rispetto all'anno precedente, il dato è più che positivo, nel senso è ovvio che le preoccupazioni sono sul finale d'anno, dicembre e gennaio-febbraio, perché è rallentata l'economia mondiale. Nessuno vuole ammantare tutto di così un ottimismo di maniera, ma quando il dato è positivo va detto. Per quello che riguarda poi il petrolio, abbiamo capito che insomma c'è un tentativo di portare dentro l'accordo anche l'Iran, che per ora non ci sta. Nessuno vuole che il prezzo del barile risalga, nel senso che a $100, lo dico agli ascoltatori, è chiaro che se continua a scendere e stare così basso si crea anche un problema di potere d'acquisto dei paesi dove noi esportiamo, per collegare i due temi. E soprattutto da questo punto di vista abbiamo visto infatti che il dato delle esportazioni sull'OPEC è un dato non buono, meno 1,2% complessivamente nel 2015. La borsa oggi, ripeto, non c'è gran notizia, ci sta, meno male, meno 0,50% Milano, meno 0,80% Francoforte, meno 0,11% Parigi, Londra più 0,65%, il Dow Jones più 1%, FTSE MIB che chiude vicinissimo a quota 16.957 punti, con due titoli in particolare evidenza: come rialzo il Monte dei Paschi più 12% e come ribasso Telecom Italia meno 6,5%. Partiamo da qui con Guido Maurino, Radio Corri, Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera. Allora, per quello che riguarda Monte dei Paschi, ha guadagnato il 12,06% in una giornata ancora di recupero per il settore bancario, in particolare per gli istituti popolari. Per quello che riguarda Monte dei Paschi non ci sono particolari nuove indicazioni, se non le nuove rassicurazioni arrivate ieri da Draghi, che ha spiegato come non saranno richiesti nuovi requisiti aggiuntivi di capitale per gli istituti di credito, un pensiero che Draghi aveva già espresso nei giorni scorsi, ma il fatto che l'abbia ribadito ha contribuito, diciamo così, a rasserenare un po' la situazione sul settore bancario. Per quello che riguarda invece Telecom Italia, oggi c'era la presentazione dei risultati preliminari e del piano industriale. Risultati preliminari sul 2015 che sono stati parzialmente deludenti, soprattutto sul fronte della marginalità. Il titolo oggi ha reagito male, ha ceduto il 6,45%. Sì, è arrivato a perdere anche di più durante la seduta Telecom. È arrivato a perdere anche oltre l'8%, poi ha recuperato leggermente sul finale. Preoccupa un po' anche il piano di investimenti, in qualche modo particolarmente ambizioso, per il prossimo triennio di Telecom Italia. Si tratta di 12 miliardi contro indicazioni precedenti di 10 miliardi, 2 miliardi in più che comunque da una parte saranno magari positive sul punto di vista industriale, ma andranno a pesare anche sui conti del gruppo. Allora, invece Fiat, allora, perde l'1,60% perché i dati sulle immatricolazioni in Europa sono buoni per il gruppo Fiat, più 14% in Europa, la quota di mercato sale al 6,6%, tra l'altro molto bene Jeep, il marchio Jeep più 32,6%, Fiat e Alfa più 13,9%, quasi 14%, Lancia più 2%, però complessivamente i dati, il mercato ha rallentato in Europa, non nel caso di Fiat ma in generale. Le immatricolazioni sono salite del 6% a 1.093.000. Il titolo comunque perde, dicevo, l'1,59%. Tra i bancari segnalo che anche Intesa San Paolo perde l'1,60% ed è uno dei pochi bancari negativo oggi, se ho ben visto, perché Unicredit guadagna lo 0,47%, ma soprattutto UbiBanca più 5%, Pop Emilia Romagna più 4,80, Pop Milano più 4,40, Banco Popolare più 3,40%. E poi abbiamo altri titoli un po' più sottili, ma non necessariamente. Italcementi, abbiamo visto un buon dato, più 1,40%, e Banca Intermobiliare. Vorrei chiudere su questi due. Sì, allora, per quello che riguarda Italcementi, diciamo il merito di questo rialzo è il fatto che Heidelberg Cement, dopo aver raggiunto l'accordo per rilevare la maggioranza della società, oggi ha annunciato che le sinergie derivanti dall'integrazione fra la società italiana e il gruppo tedesco salgono da 300 a 400 milioni, quindi un dato positivo che ha fatto sì che il titolo oggi si apprezzasse in borsa. Per quello che riguarda invece Banca Intermobiliare, che oggi ha guadagnato l'8,2%, in qualche modo si lega anche un po' all'andamento negativo di Intesa San Paolo, perché sembra, secondo indiscrezioni di stampa, che Intesa San Paolo potrebbe comprare Banca Intermobiliare, che è una banca che si occupa soprattutto di private banking, molto attiva nell'area di Torino e del Piemonte. La proprietà di Banca Intermobiliare in questo momento è in maggioranza di Veneto Banca, ed è da tempo che stanno appunto cercando una soluzione con una cessione del gruppo. Erano già arrivati vicini a venderla un po' di tempo fa alla Svizzera BSI, poi la trattativa era saltata, adesso sembrerebbe esserci un interesse di Intesa San Paolo per la banca, ecco. Allora, per quello che riguarda altri titoli migliori e peggiori in assoluto, guardo subito sul dato: il migliore è SIT Biofarma più 25%, Zucchi più 21%, Landi Renzo più 18%, IKF più 14%, Fronte Opposto Geox meno 11%, Blue Note meno 10%, Agronomia meno 6,70%, e poi c'è appunto Telecom Italia, la vera delusione, diciamo così, di oggi in borsa. Grazie Guido Maurino. Traffico. Focus Economia. Allora, spiego ad alcuni ascoltatori: noi diamo i titoli con le maggiori variazioni. Nel caso specifico, Cassa del Risparmio di Genova non è tra i commenti perché oggi ha fatto meno 0,32%. Lo dico non perché ci sia una prevenzione su qualche titolo o peggio ancora preclusione, ma semplicemente che diamo solo le variazioni più importanti. Andiamo sui temi di carattere a cavallo tra estero, diciamo, e invece temi nazionali. Allora, molta polemica ieri, ne abbiamo anche parlato, sull'ipotesi di toccare le pensioni di reversibilità. Poi il ministro Poletti è intervenuto e ha chiarito che non c'è nessuna riforma allo studio, se non qualche modifica. Allora, vediamo di capirci. È chiaro che se l'unica modifica dovesse essere quella di alcune pensioni di reversibilità, il governo ha fatto due esempi molto concreti: la persona anziana che si sposa con una persona molto giovane, al di là della scelta assolutamente libera, beh, insomma, pagare una pensione di reversibilità perché tu, diciamo, a 80 anni ti vuoi sposare c'è chi dice la badante, fatti vostri, beh, insomma, ha dei costi per lo Stato enormi, perché la pensione di reversibilità nasce per due coniugi più o meno sulla stessa età, e soprattutto nasceva in altri periodi per garantire anche alla vedova, in molti casi, visto che l'età, per fortuna per le donne, è più lunga, come età di vita supposta è più lunga per le donne, di non creare un danno economico alla donna. Molte volte erano donne che hanno versato pochi contributi e quant'altro. Certo che se devi pagare la pensione di reversibilità per 60 anni alla ventenne, anche no. E la stessa cosa si può dire per quello che riguarda certe pensioni di reversibilità su redditi particolarmente e patrimoni particolarmente alti. Detto questo, il governo ha detto: non abbiamo intenzione di metterci mano. I beneficiari delle pensioni di reversibilità sono 3 milioni in Italia, però bisogna la spesa è pari a circa 24 miliardi di euro. Però insomma, bisogna stare attenti, perché la maggior parte dei casi si tratta veramente di pensioni basse. Su questo è intervenuto nel programma che ci precede, quindi Oscar Giannino, la versione di Oscar, è intervenuto Filippo Taddei, che è il responsabile economico del PD. Perché è partita questa discussione sulla reversibilità? Io non lo so, Mai, non c'è in nessuna, la parola reversibilità non compare in nessuna riga. E quindi di che cosa stiamo parlando? Se non di un atto, cioè è quasi lapalissiano. Quello che stiamo facendo è riconoscere che la povertà è cresciuta molto, che ci sono risorse in più e che tu non le vuoi sprecare. E per non sprecarle devi riconoscere che vuoi considerare quale sia l'effettiva situazione economica di tutti i nuclei destinatari. In tutto questo io veramente vorrei che rassicurare tutti, ma dicendo veramente una cosa da palestiana, dov'è che qualcuno, chi nel governo, chi nel Partito Democratico ha detto l'obiettivo del governo è finanziare questo intervento attraverso un taglio delle pensioni di reversibilità? Se uno mi trova una dichiarazione di questo tipo, io sono disposto anche a smentirla, ma non c'è, non esiste. A me dispiace che, parlando di una cosa che non esiste, parliamo di quello che esiste, cioè la prima volta in cui tu hai un impegno del governo e delle risorse già definite in legge di stabilità destinate ad affrontare una priorità nazionale che è la lotta alla povertà, in particolare la lotta alla povertà dei nuclei familiari in cui sono coinvolti, di cui fanno parte dei minori. Allora chiedo all'inviato del Sole 24 Ore in Argentina, perché sta seguendo la missione del Presidente del Consiglio, Gerardo Pelosi, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Se Renzi è tornato poco fa sul tema delle pensioni di reversibilità, poi arriviamo su altri, ha parlato chiaramente dell'Europa, ma volevo capire se ci fossero stati altri a margine su questo. No, assolutamente no, ma anche perché le brevi dichiarazioni che ha fatto insieme al presidente argentino Mauricio Macri prima di avere la colazione di lavoro riguardavano tutti quanti i rapporti bilaterali ed economici tra Italia e Argentina. Nella visita che ha fatto al stadio del Boca Juniors stamattina, chi gli domandava, sì, i dati vanno bene, però ci sono delle critiche, appunto quelle del Financial Times, secondo il quale Renzi avrebbe fatto il suo tempo, lui ha risposto soltanto con i dati degli nuovi contratti a tempo indeterminato, i 750.000 nuovi contratti posti di lavoro a tempo indeterminato, che devono costringere anche chi criticava il Jobs Act a rivedersi, perché questo significa più mutui e quindi diciamo che le riforme vanno avanti, c'è ancora molto da fare, ma il processo ormai va avanti. Questa è una, lui non ha voluto rispondere nel merito alle critiche del Financial Times, ma indirettamente ha detto vado avanti e me ne infischio sostanzialmente. Sulla pensione di reversibilità non ha voluto dire nulla, immagino che insomma non era neanche il momento e la sede più appropriata. In realtà era 18 anni che un Presidente del Consiglio non arrivava qui a Buenos Aires e quindi tutto è stato incentrato un po' sul rafforzamento e sulla ripartenza di questo rapporto. Sì, tu hai ricordato, insomma, mi scrivono alcuni ascoltatori, se un ottantenne ha pagato regolarmente i contributi, la reversibilità spetta anche alla sua moglie ventenne. Allora, abbiamo detto una cosa un po' diversa. Intanto sappiamo che chi è andato in pensione a quegli anni non è andato con il contributivo ma con il retributivo, va benissimo, sto solo dicendo, siccome poi la paghiamo noi la pensione e la pagano anche i giovani, ci possono essere dei casi di anomalie nelle reversibilità? Sì, non è che la reversibilità è stata scritta sulle tavole della legge, ok? Ci possono essere dei casi, nel senso che se è fatta per, come nella stragrande maggioranza dei casi, per integrare quello che è l'assegno pensionistico della vedova o del vedovo, è una cosa. Ci possono essere delle anomalie anche guardando al patrimonio e al reddito, signori, ma l'anomalia più specifica è quella di carattere demografico, e cioè anzi anagrafico per essere più corretti, per cui se c'è una differenza enorme e non c'è un bisogno e tu sei andato in pensione col retributivo, ma fammi capire, e non col contributivo, perché io devo pagarti la badante quando morirai per i prossimi 40 anni. Questo non lo capisco veramente, ogni volta che si parla di pensioni bisogna dire che tutto va bene così. Tornando all'Argentina, sentiamo il passaggio in cui Renzi appunto ha ricordato, ha detto scusate il ritardo di 18 anni. Scusate se arrivo con 18 anni di ritardo, scusate se sono arrivato anche con un'altra mezz'oretta di ritardo, scusate se vi ho fatto perdere le vacanze oggi e vi hanno costretto con la forza a tornare qui a scuola, sappiate che tutti insieme ci aspettiamo moltissimo da voi, perché la bellezza della storia tra Italia e Argentina non è lo struggente ricordo del passato e non è neanche il presente, nonostante che in questi giorni faremo molti incontri. Io sono molto ottimista sul futuro delle nostre relazioni e sono convinto che potremo fare moltissime cose tutti insieme. La pagina più bella nel rapporto tra Italia e Argentina è il futuro. È ancora da scrivere e, cari ragazzi, mi sa che toccherà scriverla a voi. Noi saremo ben lieti di accompagnarvi. Allora, l'ultima parte, appunto, i rapporti commerciali, economici tra Italia e Argentina. Una precisazione devo dare. Sappiamo benissimo, l'abbiamo spiegato, che c'è già una regola all'INPS sulle diciamo pensioni di reversibilità che si consolidano dopo almeno 5 anni di matrimonio, e poi, se non ricordo male, se non ci sono i figli devono passare 10 anni e c'è una limitazione, ci mancherebbe. Però sto solo dicendo, non c'è un testo su nulla. Se poi si tratta di mettere alcuni accorgimenti su casi estremi, ma chi se ne frega, voglio dire, l'importante è non toccare le pensioni di reversibilità nella stragrande maggioranza dei casi, quando servono. Torniamo all'Argentina. Insomma, il paese quest'anno farà più 0,7% del PIL, secondo le stime. Gerardo Pelosi aveva avuto una crescita fortissima fino al 2010, poi diciamo il 2014 un altro brutto anno, l'inflazione molto alta e un quinto degli argentini vive in condizioni vicine alla povertà. Però il neopresidente Macri sta aprendo le porte al commercio estero e al business. Noi siamo, dopo Germania e Spagna, il terzo partner commerciale, con oltre 1 miliardo di export. I settori e le possibilità, Gerardo. Ma Macri ha insistito molto su quello che può essere, come dire, investimenti in settori strategici. L'Enel con Endesa qui è già il principale produttore e distributore di energia elettrica e quindi, diciamo, è già una realtà molto presente. Però per la ricerca di fonti alternative sicuramente l'Enel può fare ancora molto. Insieme a Renzi c'era anche l'amministratore delegato della Finmeccanica Moretti, che ovviamente è interessato a migliorare la presenza nel settore delle infrastrutture, delle ferrovie e quant'altro. Stamattina, tra l'altro, Renzi è andato all'inaugurazione di un cantiere di Ghella. Ghella è un studio di ingegneristica romano che sta lavorando alla metropolitana, per un tunnel della metropolitana Sarmiento, qui dentro nel Buenos Aires. Un altro settore molto importante dove ci sono ampie prospettive è quello dell'agroalimentare, dove ci possono essere prospettive di joint venture con le piccole e medie imprese italiane. E per dare un seguito a questa visita, Renzi ha annunciato una missione di sistema con 300 imprese, piccole e medie imprese italiane, entro giugno, mentre entro marzo il ministro dei beni culturali Franceschini firmerà qui a Buenos Aires dei protocolli di collaborazione nel settore culturale. Per ritornare un poco al tema che tu avevi sollevato, cioè quello della sostenibilità dei sistemi, il sistema pensionistico, il sistema di welfare, eccetera, beh, anche Macri è alle prese con, come dire, gli effetti di sistemi molto assistiti del periodo della Kirchner. Per esempio, le bollette elettriche erano qualche cosa di puramente così molto molto simbolico, 5-6 euro al mese di elettricità, anche per chi aveva case con aria condizionata, forni a microonde, eccetera. E poi si è visto che in realtà, come dire, delimitare gli aumenti soltanto a certi quartieri dei ricchi di Buenos Aires creava dei problemi. E quindi era difficile differenziare, così per esempio anche per le nostre pensioni sarà difficile differenziare qual è l'età giusta del coniuge, eccetera. Quindi questo è un problema, è una sfida che anche Macri sta avendo, e ovviamente lui ha già diciamo pulito molto l'amministrazione con circa 40-50 mila licenziamenti nel settore pubblico, che poi sono rientrati parzialmente, certo, con contratti a tempo determinato. Allora, grazie intanto in collegamento da Buenos Aires a Gerardo Pelosi. Vedo moltissimi messaggi al 349-238-6666, sia su WhatsApp che come SMS. Non ce la faccio più a rispondere. Domani torneremo sui temi e sulla giornata economico-finanziaria. Intanto l'auguro di un buon fine settimana, di una buona serata, non fine settimana, magari. Ripeto, non c'è nulla agli atti sulle pensioni di reversibilità, e quando vi sarà un testo che modificherà qualcosa lo commenteremo e capiremo, ma non c'è nulla. Noi di questo ci occupiamo, delle notizie. A domani. Radio 24, la passione si sente.